Buonasera, grazie di essere al Goethe Institute, benvenuti per questo penultimo appuntamento Mappe, un progetto comune tra il Museo delle Periferie e il Goethe Institute. L'idea di questo progetto è nata dal glossario di pratiche urbane, è un piccolo libricino edito in tedesco e inglese di varie associazioni berlinesi e l'idea era quello di tradurlo in italiano ma anche di aggiungere nuove parole e pratiche dall'Italia. E per cui con Giorgio De Finis abbiamo cominciato questi incontri. Sicuramente andremo a integrare con una serie di parole il glossario di pratiche urbane che è fatto, ogni autore ha scritto il testo su una parola e poi però invece sarà aggiunta una parte di tutti i nostri incontri, per cui ogni parola avrà una pluralità di voci. Oggi in Mappe siamo in tanti relatori, per cortesia breve, 10 minuti, in maniera che forse poi riusciamo a fare anche un secondo giro. Giorgio, tu magari riesci a dire qualcosa sugli altri? Sì, no, più che altro insomma spiegare, ma è abbastanza evidente come funziona una tavola rotonda, nel senso ci passiamo questo oggetto che non è un microfono ma è un registratore per recuperare l'audio. Poi naturalmente tortureremo ciascuno di voi affinché ci mandiate un testo breve per il catalogo, cosa che insomma, diciamo, questa restituzione scritta ci teniamo, quindi insomma sarà un po' persecutoria la nostra, diciamo. Però qualcuno si riesce sempre a sottrarre, rimarrà l'audio per proprio quelli che non hanno voglia di scrivere. Basta, niente. Diciamo, l'idea di declinare una parola invece di affidarla a un solo autore che è il curatore un po' della parola, però in realtà di farla diventare un coro per noi è centrale. Lo abbiamo sperimentato e praticato al Magro Asilo con una stanza dedicata alle parole del contemporaneo che funzionava proprio. Ogni parola 10 incontri, quindi 10 punti di vista disciplinari o anche singolari che in qualche modo spostavano i confini del termine ogni volta ridefinendolo. Quindi diciamo questo doppio gioco, ripeto un po' le cose che dico ogni volta, questo doppio gioco tra l'esigenza di definire i termini che usiamo e anche diciamo però, come dire, la inevitabile relatività di questi termini e quindi anche dello sforzo che facciamo, è un po' uno sforzo di Sisifo, insomma. Quindi oggi ci confrontiamo con la parola mappe, che è una parola su cui abbiamo lungamente lavorato con Carlo Almagro, con Antonio anche e Carlo e tanti amici, insomma, che sono qui oggi anche per Iper, Festival delle Periferie, però è una parola fondamentale secondo me, e quindi insomma buon lavoro a tutti. Do la parola al nostro, come dire, chairman della giornata. Grazie Giorgio, grazie al Museo delle Periferie, grazie al Goethe per l'ospitalità e la collaborazione. Questo è un posto davvero fantastico per questo genere di incontri. E sì, io credo che la domanda che magari potrà venire a qualcuno è come mai chiedere a me di coordinare un incontro sulle mappe, io che non sono assolutamente un esperto di mappe né un cartografo, mi occupo dell'industria dei media come qualcuno di voi sa, ma il punto è che negli ultimi anni anche chi si occupa di industria dei media, dei nuovi modelli per farla funzionare magari in modo un pochino meno tossico di adesso, si è reso conto che è fondamentale trovare delle eccezioni alla regola del presidio dell'attenzione che oggi governa tutto quello che ci investe, senza darci grandi possibilità di uscita, no? Speravamo che, per esempio, internet fosse una via d'uscita rispetto al regno dei palinsesti, e invece sono arrivati gli algoritmi a sostituire i palinsesti, a stabilire che cosa è rilevante per noi. E una cosa interessante che abbiamo scoperto, per esempio durante la pandemia, quando avevamo voglia di mettere il naso fuori di casa, di scoprire nuovi territori, è che fondamentalmente anche grazie alla rete era possibile trovare, dare una dimensione relazionale a questo oggetto, la mappa, che già quando eravamo piccoli ci incuriosiva perché era un modo di accedere a un contenuto obbedendo a regole diverse rispetto a quelle, diciamo, del testo. Io per esempio da piccolo, quando aprivo gli Atlanti, che aveva mio padre in casa, all'inizio mi facevo guidare dal flusso dominante e cercavo magari le grandi città per capire che forma avessero. Poi però mi stufavo subito e andavo a guardare i confini disputati, le zone neutrali tra l'Iraq e il Kuwait, c'è una specie di rombo, di deserto che non si capisce esattamente a chi appartenga. Queste cose tipo il dito di Caprivi in Ecuador, insomma queste stranezze. E perché? Perché ero guidato finalmente dalla mia curiosità. E se voi adesso con internet aggiungete a quella curiosità che può avere un bambino, un adolescente, la dimensione relazionale, il fatto che a queste mappe oggi possiamo partecipare, davvero dal basso, come dicevano i primi diciamo entusiasti teorici del Clutrain Manifesto, capiamo che questa, quella delle mappe, è una dimensione che ci permette di riprendere in mano il racconto, di riprendere in mano le storie, proprio perché molto spesso grazie alle mappe riusciamo ad andare nei luoghi dove, tra virgolette, a nessuno interessa che noi andiamo, i posti dove non dovremmo andare. Penso sempre anche alle famose passeggiate che organizza Carlo, i walkabout. Andiamo in posti che sono fuori dalle guide turistiche, anche per esempio le esplorazioni del collettivo Stalker Rub, che ben conosciamo. Anche lì finiamo sotto dei viadotti e non è esattamente, e non c'è nessuno che ci guadagna per questo, cioè non c'è un modello economico dietro a tutto questo, eppure stiamo entrando in quella diversity che per tanto tempo doveva fare la differenza con internet, fino al momento in cui abbiamo capito che internet è diventata un'altra televisione, molto più sofisticata come strumenti di controllo, ma un'altra televisione come la definisce un blogger iraniano che si chiama Hossein Derakhshan, che proprio nel momento in cui tutto stava cambiando e internet non era più il sogno che speravamo, era in carcere a scontare gli ultimi anni per il blog dissidente che stava tenendo. Uscito dal carcere pensava di ricominciare il blog, non lo leggeva più nessuno perché erano andati tutti di nuovo in questi mondi chiusi come Facebook, Twitter, a parlare non di cose veramente importanti, ma a parlare di nuovo di ciò che qualcuno stabilisce sia opportuno sapere per poter essere in un circuito sociale, no? Quindi smettere di scoprire, smettere di esplorare, smettere di essere nel search ed entrare in questo discovery, che detta così sembra quasi una bella parola. Il problema è che discovery nel mondo dei broadcaster, vi assicuro, è davvero la peggiore parola, perché è la parola del controllo, è la parola del reindirizzamento del nostro pensiero là dove qualcuno riesce a fare soldi, rivendendo i nostri dati agli inserzionisti o facendo comunque planare le nostre eyeball là dove esiste un modello di business tossico ma funzionante. Per questo le mappe sono incredibilmente preziose. A questo punto io avrei dovuto, secondo Giorgio, fare una personale operazione di ricostruzione del lemma aggiornato alle grandi pratiche urbane di oggi. Io sono completamente inadeguato per farlo e non ho chiesto di farlo alla persona più in gamba sotto questo profilo per farlo, cioè Vera. Ho chiesto semmai a Vera di riportarci a terra, di riportarci proprio all'origine di questa parola, perché da qui è opportuno partire per capire dove possiamo arrivare, e quasi sperando di arrivare in un posto dove non dovremmo andare. Grazie Vera. Grazie. Intanto buon pomeriggio alle persone presenti. C'è una cosa che mi colpisce sempre dei compiti che mi dà Antonio Pavolini, è che sono completamente fuori dalle cose che faccio di solito, quindi mi spinge sempre in una zona liminale, di confine. Litighi con la gente. No, non è vero, anzi io sono gli altri che mi litigano, io subisco i litigi altrui, però a parte questo mi spingi sempre al di là di quella zona di conforto in cui mi muovo di solito. E questo mi fa venire in mente immediatamente la vecchia cartografia, se avete presente le mappe di una volta, ci sono sempre dei punti di queste vecchie mappe in cui compaiono fondamentalmente due scritte. Una è Hic sunt leones, qui ci sono i leoni, e l'altra è terra incognita, terra sconosciuta. No? Quindi c'era una mappa che a un certo punto sfumava, ed è anche molto interessante guardare le vecchie mappe, sto pensando alla cartografia secentesca, in cui noi vediamo le sagome di luoghi che ormai conosciamo e che riconosciamo a occhio, pensate, non so, la penisola arabica, una roba del genere, però tutte un po' storte, perché ovviamente i mezzi per mappare come mappiamo oggi non c'erano. Ecco, le mie ricerche per l'appunto in ambito linguistico si muovono peraltro proprio lì, in quel contesto lì, nella terra incognita, in quello che c'è ai bordi, che c'è sul confine o al di là del confine. E prima di arrivare a mappa volevo proprio portarvi un attimo a riflettere su cosa vuol dire confine. Noi il confine lo percepiamo come la fine di qualcosa, il bordo. In realtà confine è il luogo dove si incontra ciò che conosciamo con ciò che non conosciamo, no? Quindi è una linea che separa il conosciuto da, per l'appunto, la terra incognita. Una delle caratteristiche dell'essere umano è sempre stata quella di andare alla ricerca di cosa c'è oltre quella linea del conosciuto. Ed è grazie a questa curiosità che a volte uccide le persone, a volte le corrompe, a volte le fa perdere, anche perdersi e perdere, che noi comunque come specie siamo andati avanti. E quindi questo mi riporta anche alla questione delle periferie presenti sulle mappe, no? E dei bordi, e di Bell Hooks, che diceva appunto che le cose succedono sempre ai margini del conosciuto, ma anche dell'ufficiale, del normale, del normato. Ora, mappa è una parola che ha un'etimologia molto, molto lineare per certi versi, è un termine molto antico, come potete immaginare. La prima occorrenza italiana è marcata dallo Zingarelli avanti 1328, il che vuol dire che ci sono, probabilmente lo sapete, che si riporta nella parte etimologica del dizionario sempre la prima occorrenza scritta della parola. Questo vuol dire che la parola era già usata prima, ma che il primo documento in cui compare quella parola scritta è più o meno di quegli anni là, ed è tanto, no? È una parola vecchia. Da dove viene? Dal latino mappam, parola di origine pre-indoeuropea, e questo vuol dire che c'è una linearità anche nell'etimologia, e questo significa che le mappe sono sempre state lì, sono sempre state un ausilio fin dai tempi più antichi dell'essere umano, una specie di intercapedine, di interpretazione del nostro rapporto con il territorio, no? E quindi una specie di ora poi vi leggerò la definizione ufficiale per quello che ci interessa, ma è una sorta di riproduzione in scala, per quanto possibile, del territorio che poi gli esseri umani devono coprire con i loro movimenti, devono percorrere, devono conoscere. In particolare nel significato, diciamo, quello più antico, mappa significa rappresentazione cartografica molto dettagliata, e in primis era di un territorio rurale, con scala compresa fra 1 a 500 e 1 a 5000, quindi insomma erano delle dimensioni abbastanza contenute, non si mappavano ancora interi continenti, si mappavano soprattutto i campi, no? Cioè le zone che poi magari andavano suddivise fra le varie persone, fra i vari proprietari. A suo tempo erano gli antichi agronomi che eseguivano specialmente su tela la rappresentazione grafica di un terreno, e questo è, diciamo, il primo significato, quello più lineare e anche quello che ci interessa di più. Dopodiché, in realtà, mappa viene applicato a tantissimi, tantissimi altri contesti. È un classico caso di polisemia, di parola che ha molti significati. A parte quello di tovaglia, tovagliolo, drappo, panno di lana usato dalle contadine di paesi montani per proteggere il capo dal freddo, quindi c'è anche tutto un altro settore d'uso, ma rappresentazione schematica di una situazione, e perfino profilo della dentatura di una chiave, no? Quindi è una di quelle parole che al suo interno ha un sacco di mondi, ma per quello che ci interessa, secondo me, le due cose importanti sono: uno, una parola che esiste in maniera abbastanza lineare da tantissimo tempo, in italiano e prima in latino, e due, il primo significato è proprio quello di riproduzione di un terreno. Più sono aumentate le nostre competenze, le nostre capacità, la tecnologia, e più queste mappe sono diventate enormi. E, io sono una che leggeva le mappe da piccolina, perché noi tutti gli anni facevamo questo viaggio della speranza con i miei genitori, mezza mia famiglia ungherese, E noi non siamo mai andati in aereo in Ungheria, andavamo in treno, prima attraverso l'ex Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, il che vi dice anche un po', vi svela la mia età, e poi più avanti passando, diciamo evitando ovviamente l'ex Jugoslavia in tutti gli anni del conflitto, ma anche successivamente, quindi passando dall'Austria e quindi facendo una curva in più. Però la caratteristica di quei viaggi lì è che Google Maps ancora non c'era, il satellitare non esisteva, cioè sto parlando veramente di anni 80, anni 70, anni 80 e inizio anni 90, e quindi c'era mia madre che faceva la navigatrice con queste enormi mappe aperte in macchina, che poi una caratteristica della carta geografica è che non riesci mai più a ripiegarla come bisognerebbe ripiegarla, no? Questo è un grande mistero, è come l'USB. Ci sono dei misteri della vita, no? Che sono sempre quelli. E quindi c'era mia madre che diceva vai lì, vai qua, vai su, vai giù, e effettivamente un po' ho imparato anch'io a leggere le mappe. Dopodiché ho apprezzato moltissimo il passaggio tecnologico del Google Maps, che quando c'è un intoppo ti fa deviare verso lì di improbabili, ed è così che ho scoperto tutte quelle zone che di solito uno non frequenta, no? Che siano paesini, che siano sterrati, eccetera, eccetera. Quindi apprezzo molto, diciamo così, tutto quello che è successo a livello tecnologico, però c'è qualcosa, c'è una fascinazione nell'aprire una mappa, soprattutto una mappa di una volta, e confrontarla con come sono fatte le mappe oggi, e quindi questo credo possa servire da pitch per tutto quello che verrà dopo. Assolutamente, grazie Vera, anche insomma sappiamo che ami molto l'evoluzione in tempo reale della lingua. Mi è piaciuto molto sia il passo all'indietro sia il passo in avanti, cioè il verbo litigare transitivo che d'ora in poi adotterò. Devo dire che con mia figlia già lo adotto da un po', vedremo se funzionerà. Aspetta quando inizi a parlare corsivo, poi. Sì, il corsivo comincia a avere. Ho ancora qualche difficoltà col corsivo. Volevo adesso, visto che c'è stato una, diciamo così, micro elogio verso Google Maps da parte di Vera, e anche io apprezzo naturalmente Google Maps, però vorrei passare la parola a Stefano Simoncini, che magari ci fa anche capire come anche all'interno delle mappe moderne ci sono diversi gradi di reale capacità di movimento, perché una cosa è un servizio commerciale, una cosa è un servizio magari volontaristico. E io apprezzo moltissimo quello che Stefano ha fatto nella sua ricerca negli ultimi anni, soprattutto perché ha mostrato molto chiaramente quale può essere il potenziale politico e sociale della consapevolezza dell'uso di questi strumenti. Quindi ho anche sbirciato la sua presentazione, che è troppo lunga rispetto ai 10 minuti che abbiamo, ma non importa, perché sono sicuro che riuscirà a farcela vedere rapidamente. Un attimo, che lo metto sullo schermo. Allora, salve a tutti, grazie per l'invito, e diciamo questo appuntamento mi sembra quasi una sorta di seminario ricorrente in cui cerchiamo di affinare il ragionamento collettivo, e per questo mi sembra doppiamente interessante e doppiamente, diciamo, promettente dal punto di vista di quello che andiamo a sviluppare. Il ragionamento sulle mappe, diciamo, che tento di fare, va nella direzione di far capire come le mappe si sono trasformate e come stanno trasformando il nostro mondo, perché il concetto da cui parto quando mi capita di spiegare appunto il tema, cioè che qual è la funzione. Se vuoi, te lo muovo. Ok, va bene, dai. E qual è diciamo, lo statuto e la valenza sociale e politica delle mappe? Diciamo, il punto da cui partire è che le mappe diciamo, non sono un oggetto scientifico, intrinsecamente scientifico, per quanto diciamo, hanno molto a che vedere con la scienza, hanno molto a che vedere con la tecnica, si sono evolute grazie alla scienza e alla tecnica, hanno raggiunto livelli di capacità di rappresentazione anche oggettiva del territorio, ma come si dice, come si tende a dire negli studi cartografici e geografici, soprattutto nella geografia critica, la mappa non è mai oggettiva, la mappa non è il territorio. In che senso? Non è il territorio, che è sempre una rappresentazione, un costrutto sociale, cioè una rappresentazione parziale che rappresenta o condizionamenti culturali, oppure delle finalità legate alla funzione della mappa. Quindi la mappa sostanzialmente è un prodotto sociale da un lato, e dall'altro la cosa fondamentale è che è un oggetto che oltre a rappresentare il territorio, in una certa misura lo produce anche il territorio, perché rappresentando in una certa forma il territorio, selezionando gli oggetti del territorio, ne determina parzialmente gli usi, e determinandone gli usi in qualche modo è produttiva di territorio. Questo è un concetto fondamentale che diventa una chiave interpretativa decisiva nell'interpretare, nell'andare a leggere quelle che sono state le evoluzioni determinate dalla tecnica nel fenomeno cartografico. Per quanto riguarda la cartografia, chiaramente tutta la rivoluzione digitale ha prodotto un enorme potenziamento. In questa slide vedete tutti i livelli di potenziamento che il digitale e soprattutto il web hanno determinato sulla cartografia. Sono elencati i limiti di spazio, cioè trascende tutti i limiti della cartografia tradizionale, i limiti di spazio ovviamente, i limiti di tempo perché può essere costantemente aggiornata, i limiti di agency, si diceva, la mappa è prodotta dall'utenza e può essere prodotta dal basso, da un numero illimitato di produttori di conoscenza cartografica. I limiti di comunicazione, perché integra, non deve più ricorrere necessariamente al linguaggio simbolico, può rappresentare attraverso la multimedialità il territorio. E poi i limiti di utilizzo, nel senso che non è più un oggetto esterno, ma noi siamo integrati nei nostri movimenti all'interno della mappa, quindi c'è un'integrazione tra il reale e tra la realtà e la rappresentazione, e tra il soggetto e l'oggetto. E in questo senso, ha avuto un potenziamento enorme anche nella sua capacità di produrre il territorio, e da questo punto di vista diventa fondamentale la modalità di funzionamento della cartografia proprio in ragione di quelli che possono essere i risultati di questa produzione del territorio. Un certo modo di rappresentare automaticamente, grazie all'ausilio degli algoritmi, il territorio può determinare certi impatti sul territorio stesso. In particolare mi riferisco, appunto, si parlava di Google Maps. Google Maps fa leva su una produzione diffusa, si chiama crowdsourcing, dei dati cartografici, però è una produzione passiva, l'utente è utilizzato come un produttore passivo di dati, ed è l'algoritmo che decide quali sono i criteri e le modalità di selezione di questi dati, e quindi di cosa rappresentare o non rappresentare. Fondamentalmente, senza che mi dilungo, prevale una dimensione relazionale tra utente e territorio, che riguarda prevalentemente la dimensione commerciale, e la selezione algoritmica e il ranking algoritmico degli oggetti è un ranking che è prevalentemente quantitativo, determina quello che definiscono una ridondanza algoritmica, cioè il flusso di informazioni digitali determina in qualche modo circolarmente il flusso materiale, e così i flussi materiali rideterminano i flussi immateriali. Un concetto fondamentale è il fatto che attualmente sul tema della cartografia non è un tema antico, non è un tema legato al passato, è un tema legato al futuro, perché c'è una vera e propria corsa tecnologica per la conquista di quello che è il digital twin, cioè il doppio del territorio. C'è una tendenza sempre più affinata a produrre un doppio virtuale sempre più accurato del territorio legato a varie funzioni e vari servizi, e questo determina quella che è, diciamo, un elemento chiave di quella che viene definita il governo algoritmico del sociale, un governo da remoto che ha determinato una sorta di sovranità parallela. E l'elemento, un nodo fondamentale è appunto il digital twin del territorio, che consente di gestire e estrarre valore dalle relazioni territoriali. In questo senso però non è l'unico fenomeno quello legato alle piattaforme commerciali e centralizzate, c'è un fenomeno anche di produzione dal basso, non prevalentemente passiva, ma anche una produzione attiva, che è non con finalità commerciali ed estrattive, che può essere ben esemplificata da uno degli esempi più noti, che è OpenStreetMap. E qui vedete una comparazione sulla baraccopoli di Kibera a Nairobi, dove Google rappresenta uno spazio vuoto, mentre invece OpenStreetMap, che ha avuto un progetto mirato che ha coinvolto gli abitanti dello slum di Kibera, rappresenta tutti i vicoli, tutti i servizi, dai servizi sanitari, servizi erogazione dell'acqua e quant'altro. E in questo senso il fenomeno di quelle che vengono definite neogeografie o volunteered geographic information è un fenomeno molto ampio, che viene classificato in vari modi anche in relazione al ruolo dei cittadini, che può essere più o meno attivo e consapevole. Un altro criterio fondamentale è, diciamo, sulla qualità del dato, che può essere più o meno strutturato, più tecnico, più narrativo, se vogliamo dire in questo modo. Questo è uno schema che non vi sto a spiegare, e qui ci sono una serie di esemplificazioni relative a questa classificazione che incrocia il ruolo dei cittadini con la tipologia del dato. Una caratteristica fondamentale delle neogeografie, abbiamo detto, è la multimedialità, che determina appunto una capacità di coinvolgimento dell'utente che può essere molto molto efficace. E soprattutto, una tipologia su cui si concentra il mio lavoro per quanto riguarda il fenomeno delle neogeografie, cioè quindi delle cartografie prodotte dal basso, è quello dei geomedia civici e delle mappe collaborative. Cioè, a differenza di OpenStreetMap, queste mappe sono prodotte dal territorio, non è una comunità globale che produce conoscenza tendenzialmente oggettiva in un virtual globe generale, ma qui abbiamo a che fare con dei processi sociali e territoriali che tentano di costruire dal basso delle rappresentazioni funzionali a progettualità e valori di queste comunità. E quindi abbiamo delle rappresentazioni cartografiche molto granulari, cioè molto dettagliate, e soprattutto organizzate per quanto riguarda la conoscenza territoriale intorno a delle progettualità. E abbiamo qui un esempio su Manhattan, vediamo un insieme di mappature che poi tra loro sono anche legate sui beni comuni, su dati urbanistici aggregati e amministrativi aggregati da volontari da varie fonti, una mappa sull'archivio storico fotografico di New York che è uno strumento di valorizzazione del patrimonio immateriale, e una mappa sul patrimonio abbandonato. Questo insieme di temi ricorrono in questo fenomeno molto articolato, che però, andando avanti, ha una serie di limiti legati al fatto che spesso il contenuto cartografico è inaffidabile, che c'è una frammentazione di iniziative, c'è una tendenziale obsolescenza dei dati. La risposta che si può dare a livello territoriale per fare in modo che questa modalità diventi una modalità produttiva, tanto quanto lo è quella della cartografia delle piattaforme commerciali, è legata al fatto che bisogna in qualche modo adottare lo stesso approccio delle piattaforme commerciali, cioè tentare di costruire infrastrutture integrate anche a livello territoriale. Questo non significa centralizzarle, ma lavorare perché ci siano delle infrastrutture, degli ambienti interoperabili e che si lavori sulla standardizzazione dei dati e soprattutto che si lavori con le reti sociali, con l'infrastruttura sociale, che ci sia un'evoluzione, una coevoluzione tra i due elementi, le due dimensioni. Questa è un'esemplificazione di questo, diciamo, che è legato a un progetto che porta avanti da anni, si chiama Reterre, Reti e Territorio, che è un progetto che non mira tanto a produrre mappe, per quanto se ne producano, ma che tende a supportare le reti sociali che hanno interesse per la cartografia come strumento di cooperazione e di azione politica e sociale, e diciamo seguire questi processi significa tentare di fare un'azione abilitante che tende a in qualche modo standardizzare gli usi, i metodi la conoscenza. Qui abbiamo una serie, ve li scorro rapidamente, ve li nomino perché sto sforando, una serie di progetti, di casi che su Roma in qualche modo stanno cercando di andare in questa direzione, che è una direzione che però, attenzione, fa leva sulla cartografia in una direzione che non ho ancora citato ma che è fondamentale, cioè la cartografia essendo diventato un ambiente relazionale, è un ambiente relazionale che costituisce anche una sfera pubblica fondamentale all'interno della quale organizzare conoscenza e produrre visioni e identità collettive. E in questo senso diventa una sorta di spazio contendibile rispetto a una sfera pubblica sempre più privatizzata. Quindi la cartografia diventa una sorta di spazio relazionale dove costruire soggettività, cioè uno strumento di soggettivazione collettiva. In questo senso questi progetti, questo ad esempio è Mente Locale, è come Università Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, con il coordinamento di Carlo Cellammare, stiamo portando avanti questo progetto finanziato dalla Fondazione Bulgari, che ha come obiettivo di supportare una rete sociale del quadrante est di Centocelle, la Libera Assemblea di Centocelle, in un progetto che intende mappare la rete ecologica del quadrante est, che è una rete ecologica molto frammentata ma con dei grandi valori, delle grandi potenzialità, e l'obiettivo chiaramente non è mappare ma di mettere in rete i comitati organizzando tutta la conoscenza e l'esperienza che si portano dietro da anni e le loro vertenze, e mettendoli in rete creare uno spazio di progettazione. Quindi stiamo costruendo un master plan dal basso della rete ecologica. E questa operazione non è un'operazione culturale o di progettazione astratta, ma ha costituito una rete che ha oggettivamente un peso politico e sta innescando delle dinamiche politiche per l'attuazione della rete ecologica, con un conflitto molto importante su un'area che è il Pratone di Torre Spaccata, dove è prevista, sono previsti 700.000 metri cubi di cemento. È una rete ecologica fondamentale, come potete vedere, e qui abbiamo la rete, diciamo, un'infrastruttura sociale che abbiamo messo insieme, e insieme all'infrastruttura sociale c'è l'infrastruttura verde ecologica, perché l'idea è che su questa base, incrociando in un sistema socio-ecologico alternativo, si costruisce un modello alternativo di sviluppo locale. Qui c'è il sistema di mappatura che abbiamo utilizzato con software free e open, è una specie di bricolage di servizi open web e di strumenti aperti e gratuiti. Qui un bot di Telegram, una wiki e un WebGIS fondamentalmente. E questo è il sistema che abbiamo messo in piedi dal punto di vista del flusso di lavoro. C'abbiamo un'app per le esplorazioni che finisce sul WebGIS, la wiki finisce sul WebGIS lo stesso, gli open data ugualmente, e le varie uscite vanno in direzione di una coprogettazione. Cultural mapping è un altro tema fondamentale che comincia ad avere una tradizione di scritta, ma molto complesso. Il progetto Impacting Rome, lo cito molto en passant, è un progetto del comune di Roma, capofila, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzione Pubblica, ed è il progetto di una piattaforma innovativa a supporto delle industrie culturali, ma con un concetto avanzato che significa una piattaforma che fondamentalmente favorisce un incontro di domanda offerta con dei criteri territoriali che valutano capacità culturale e livello di partecipazione culturale dei territori, con la possibilità da parte del pubblico di fare sostegno alla domanda e all'offerta, e però anche, diciamo, un ecosistema collaborativo all'interno del quale gli utenti profilati possono entrare in contatto tra di loro, coprogettare con una serie di strumenti che possono andare dall'asset sharing, ma anche alla possibilità di appunto degli strumenti di progettazione avanzata. Un altro e l'ultimo, siamo arrivati, è la piattaforma La Bella Estate di Renato Nicolini, che è una mappatura di tutte le iniziative dell'estate romana, ma di tutti gli anni, ma con l'idea di costruire una piattaforma di incontro tra patrimonio materiale e patrimonio immateriale che diventi un archivio dinamico della cultura immateriale che si produce nei territori, con la possibilità anche lì di creare un ecosistema collaborativo simile a quello che aveva messo in piedi Nicolini, che usava la città come una piattaforma collaborativa per l'incontro tra grande pubblico e operatori culturali di qualità. Okay, grazie, scusa se sono stato così assertivo e anche un po' fastidioso / ossessivo addirittura col timer, ma siamo tanti e purtroppo, cioè siamo tanti e con tante cose da dire, ripeto, e a proposito di cose da dire, adesso vorrei spostarmi un po' sul fronte del data journalism e guardo Donata Columbro, che conosco ormai credo da 10 anni, ed è una persona con cui ho condiviso una forma di tigna contro l'esistente, potremmo definire, no? Cioè, sono 10 anni che ciascuno nel proprio campo combatte una piccola battaglia, non verso la verità, ma verso il fornire alle persone gli strumenti per interpretare il reale, che è una cosa, è un passaggio fondamentale, perché qui siamo, nel frattempo sono nate le testate giornalistiche che si chiamano La Verità, no? Superando piccole questioni semiotiche, tipo quella di Jost, che dice che, visto che usiamo testi, non possiamo mai dire né il vero né il falso, no? E io lo faccio con gli strumenti, diciamo, economici, e guardo i bilanci dei gruppi editoriali e scuoto la testa e dico: non si va da nessuna parte, bisogna trovare altri modi per remunerarli. E Donata lo fa in modo molto più intelligente, cioè nel senso che ci mette del suo e capisce che le persone cominciano a guardare le cose rilevanti per loro, superando i normali cicli di intermediazione e andando alle fonti dirette. Oggi le fonti dirette sono spesso anche i dataset. Ed essendo possiamo dire, lei è una giornalista, però nel tempo è diventata veramente una delle poche vere data journalist che abbiamo in Italia. Data journalism esiste per esempio in Inghilterra ormai da, possiamo dire, da 15 anni, no? Il Guardian è stato forse la storia più interessante, la prima. In Italia no, non abbiamo, secondo me, il data journalism, possiamo dire che è una fisima da noi abbiamo delle splendide infografiche e muove i primi passi, possiamo dire, e i primi passi nascono dal basso, nascono fuori dai grandi gruppi editoriali, con iniziative come Data Ninja, di cui sei stata fondatrice, adesso non lavori più lì dentro, però insomma adesso hai anche scritto dei libri che si intitolano in modo estremamente eloquente cose tipo Ti spiego il dato, se non sbaglio, ecco, questo è l'ultimo, no, il penultimo, perché c'è un altro, si chiama Le mappe dei dati, no? Quello di uscito per Quinto Quarto nel 2020, l'anno scorso. Ti spiego il dato, è l'ultimo libro che hai scritto, scusate, mi sono confuso, ma sono tanti i libri interessanti che escono, e quindi io quello che vorrei chiedere a Donata è: ma ci aiuta l'idea della mappa nell'avvicinarci alla chiave interpretativa della realtà di quello che davvero è rilevante per noi? Grazie Antonio Paolini dell'invito e di essere qui, anche degli interventi interessanti che ho ascoltato prima. Appunto ascoltandovi ho costruito una mappa divagando un po' rispetto all'idea che avevo di raccontarvi, ma mi ricongiungerò appunto a come le mappe plasmano il mondo oggi, il nostro mondo, e di come, anche se oggi sempre di più il nostro uso della tecnologia ci rende parte della costruzione di queste mappe, non è detto che tutte le persone siano in grado di leggerle e interpretarle. A volte manca questo, c'è un gap dalla capacità tecnologica che abbiamo nell'essere parte appunto della creazione di mappe del territorio e il sapere interpretare le mappe che vediamo. Il lavoro che io faccio è quello appunto di divulgare la cultura del dato, che non vuol dire raccontare che siamo in un mondo data driven, che senza i dati sei solo una persona con un'opinione, no, è tutto il contrario, anzi è il far rendere conto alle persone che produciamo noi stessi dati, appunto come è stato detto anche prima, anche nella costruzione di mappe, ma non solo. I due anni di pandemia ci hanno fatto rendere sempre di più conto che i dati plasmano la nostra vita quotidiana, quindi è diciamo una premessa che oggi è evitabile nel raccontare che siamo dati, le produciamo utilizzando le app digitali, ma li utilizziamo anche per interpretare il mondo e per prendere decisioni quando andiamo al supermercato e confrontiamo i prezzi, quando calcoliamo la probabilità di arrivare in tempo a un evento prendendo un mezzo o un altro. E abbiamo anche dentro di noi le capacità di leggere rappresentazioni dei dati. Le abbiamo spesso messe in un angolo, quando a scuola si fa matematica, geografia, storia, le si fanno separate, non si parte dal dato e non si mettono insieme queste competenze. Nell'approfondire quindi l'idea del come oggi i dati plasmano la società, ed è questo il mio modo anche di fare giornalismo dei dati, ho scoperto la corrente del data feminism, il femminismo dei dati, che non riguarda le donne, come il femminismo non riguarda esclusivamente le donne, ma riguarda il modo in cui i dati alimentano il potere, racconta come i dati possono continuare a perpetrare le relazioni di potere all'interno della società, e quindi da un punto di vista intersezionale come i dati possono mettere ai margini le persone, possono discriminarle, come una raccolta dati, come una mappa. Abbiamo visto l'esempio di prima in contrasto di Google e OpenStreetMap, no? Quindi una mappa realizzata da una società, da una corporation, una mappa realizzata dal basso. Le autrici di Data Feminism mettono queste, cercano di indagare il modo appunto in cui l'uso dei dati può plasmare la nostra società, e aiutano a chiederci, a farci le domande giuste quando vediamo citati dei dati, quando vediamo delle mappe o dei dataset, cioè chi ha raccolto quei dati, chi ne beneficia e chi sarà discriminato, farsi sempre queste domande. Una divagazione che appunto volevo fare era legata a due cose che avete raccontato, Antonio Paolini e Vera Gheno, sul fatto che anche il web che frequentiamo appunto è un luogo plasmato di dati, e il modo in cui questi dati sono messi in relazione tra di loro spesso appunto creano dei luoghi che frequentiamo, e li frequentiamo perché è chi ha il potere che ci porta in quei luoghi. Catherine D'Ignazio, che è una delle autrici di Data Feminism, anni fa ha creato un progetto che si chiamava Terra Incognita, per far uscire le persone dalle mappe del web create dal potere. Era un plugin che si poteva installare su Google su Chrome. Lui analizzava le pagine web che frequentavi, soprattutto a livello geografico, quindi cercava di identificare i paesi di cui ti eri informato, avevi letto notizie, e ogni volta che aprivi una tab ti portava in una terra per te incognita, in un luogo, non avevi mai letto niente sulla Cina, guarda, c'è una notizia che riguarda questo paese. Era un'idea molto, diciamo, all'avanguardia. Oggi purtroppo quel plugin non funziona più, ho ritentato di di sfruttarlo, perché oggi che appunto parliamo dell'algoritmo che plasma il modo in cui utilizziamo i social network, poteva essere interessante, ma effettivamente la ricerca di Katrin D'Ignazio è andata poi verso questa direzione. Loro, le autrici lavorano molto, elaborano molto il concetto appunto di, parlano soprattutto a chi lavora con i dati, nel libro appunto che hanno scritto parlando della, del movimento del data feminism sono anche molto tecniche, parlano di come dobbiamo farci le domande anche nel momento in cui dobbiamo pulire i dataset. La data science ha sempre dato diciamo come diciamo idea della, del rigore come punto finale, no? La precisione. Alle origini il data journalism si chiamava precision journalism, giornalismo di precisione, quindi dava anche un'indicazione quasi di qualità, no? Al tipo di giornalismo. E loro mettono in discussione tutto, e questo appunto è molto interessante, facendoci venire dei dubbi e sulle curiosità su come funziona l'uso dei dati e anche delle mappe oggi. Parlano per esempio di, del fenomeno del redlining negli Stati Uniti con la, negli anni 30, con la riforma diciamo, della struttura delle case e del credito, era stata individuata in una società appunto di erogazione del credito il mandato di definire quali erano le persone che potevano accedere al credito, al mutuo per rinnovare o cambiare casa, e venivano create delle mappe in cui venivano selezionate di rosso le zone dove le persone che abitavano in queste zone avevano meno probabilità di poter restituire i soldi. Questa mappatura del territorio ha definito una segregazione delle persone, ha ridefinito la geografia delle città degli Stati Uniti, che hanno continuato a mantenere questa struttura, e le persone che vivevano nelle zone cerchiate di rosso sono ancora oggi appunto le persone che hanno difficoltà ad accedere alle scuole migliori, a cambiare appunto a uscire diciamo dalla fascia di reddito, la fascia sociale dei genitori. Per cambiare appunto la geografia dei luoghi e anche il modo, la narrazione dei dati fatta dall'alto, loro suggeriscono di, appunto di partire da iniziative di counter data, di raccolta di dati alternativi, come le iniziative di crowd mapping, per raccontare quello che oggi non c'è. Penso alla mappa, al lavoro di obiezione respinta, che raccoglie di segnalazioni dal basso di ospedali, di medici, di consultori, sia diciamo dove si applica bene la legge per l'interruzione di gravidanza, sia dove si applica male. E questo è una risposta, per esempio, dal basso di copertura di dati che oggi parzialmente è stata fatta grazie al lavoro di due giornaliste ricercatrici, Chiara Lalli e Sonia Montegiove, sui dati degli obiettori di coscienza in Italia, ma che non esiste ancora a livello granulare sul territorio. Quindi a volte abbiamo dei dati parziali, no? Quando qui arrivo alla parte della lettura delle mappe, vediamo una mappa, per esempio la mappa dell'Italia, che colora le regioni in base appunto all'applicazione reale della 194, e quindi della presenza di obiettori di coscienza. Vediamo magari regioni colorate di verde dove si applica, ma magari la regione si colora interamente perché non ci sono dati singoli sulle città o sui singoli ospedali. E quindi la lettura di quella mappa ci fa dire che in quella regione la legge è pienamente applicata, ma non lo è in realtà se vado a vedere il dato granulare, che ad oggi non è disponibile, non viene fornito, anche se è un dato pubblico, ed ecco che arriva il counter data a raccontarci qual è in realtà la situazione sul territorio. Dal punto di vista dei cittadini e delle cittadine, saper per esempio interpretare questa differenza, dal mio punto di vista, fa parte dell'altro aspetto dell'essere non discriminati sull'uso nel mondo dell'uso dei dati e delle mappe. Perché se non so leggerlo, se non so interpretarlo, anche con tutti i mezzi a disposizione, rimango comunque escluso, non ho accesso al potere. Quindi l'altra parte, quell'altro aspetto dell'accessibilità è fondamentale. L'accessibilità non vuol dire solo avere in mano la mappa, ma saperla leggere, saper vedere cosa significa, saper interpretare i simboli, le parole che vengono utilizzate, che sono fondamentali nei grafici e nelle mappe, per esempio, sia nella leggenda, ma anche quelle che uso per descriverla. E questo è un altro filone, appunto, che chi lavora con i dati e nel mondo anglosassone si fa queste domande, no? L'idea di guidare i lettori e le lettrici in quello che è la produzione finale. Un'immagine, una mappa non vale più di 1000 parole, non lo fa un grafico, non è un'immagine. Il mio scopo lo raggiungo quando fornisco l'informazione, quando la persona ha appreso e ha compreso quello che c'è all'interno. Quindi questa, per chi lavora appunto nella costruzione di mappe, anche con le comunità, questo è un altro aspetto che ritengo fondamentale. Grazie Donata, effettivamente si potrebbe dire, intanto grazie per i 4 minuti che ci hai regalato, poi li recuperiamo. Sì, è vero, anche Vera è stata molto, molto rapida. Sì, è proprio vero che c'è anche un problema di educazione al dato. Questo libro è un primo sforzo veramente strutturato in questa direzione, è una lettura che consiglio a molti. In questo senso dico che da noi ci sono le infografiche, visto che giustamente eri un po' incerta quando ho detto che il data journalism è a zero. Non è a zero, però siamo indietro proprio perché manca questo livello di educazione. È una casa. Sì, perché no carne. Le frattaglie. Non è carne. È una cosa border ed è molto interessante, io sono un entusiasta. A proposito di mappe. Sì, ma adesso la devo passare a te.